Ben arrivati nella mansarda del Dottor Pirates, parleremo di Ghost in the Shell, che è fondamentale per il cyberpunk e la fantascienza, manga e anime che portano il suo nome hanno ispirato Matrix e tantissime produzioni. Hollywood ha deciso di farne un film, ok, allora valutiamolo. Prima come film indipendente dalle opere su cui si basa, poi verso la fine della recensione avrò anche modo di rivolgermi ai super fan otaku, però dai, voi secondo me già lo sapete. Il film si presenta visivamente molto bene, cyberpunk e oriente mischiati al massimo, e Kiri Akira. La megalopoli è un agglomerato di freak tecnologici, luci, piccole vie che non si sa dove portano. Da questo punto di vista è molto bello, e anche potente. Ma purtroppo quasi immediatamente capiamo una cosa. Questo film pensa di gestire i temi trattati con semplici e veloci battute tra i personaggi. E a me queste cose non piacciono molto, mi spiego meglio. Nei primi minuti la figura della scienziata ricercatrice ci dice cos'è il ghost, l'anima, e che cos'è lo shell, il corpo, in modo molto enciclopedico. Sa tanto di forzatura, ma evidentemente i produttori volevano essere sicuri che lo spettatore conoscesse subito le basi del tema trattato, e ok, ci può stare. Il film però prenderà una brutta piega con i dialoghi. Fondamentalmente spiegherà in modo sbrigativo e didascalico concetti che sarebbero dovuti essere sviluppati in ben altro modo. Non viene creato lo stimolo alla riflessione nella mente dello spettatore. L'elemento emozionale e filosofico è devastato dalla banalità dei dialoghi e trattato con poco riguardo. Che cosa ci rende umani? Un'intelligenza artificiale può essere considerata un essere vivente? Queste cose dovrebbero essere i cardini dell'opera, se no il rischio è avere una serie di sequenze sconnesse che si alterano, in particolare se non eccelli neanche nell'azione o nella narrazione. È come se si volesse sempre rassicurare lo spettatore, ma siamo in un territorio cyberpunk, non cerchiamo sicurezze. Ci dovrebbero essere paure e dubbi in grado di riflettersi anche sulla nostra società per via dei temi trattati. Invece non abbiamo nulla di tutto questo. Io non penso che dovesse essere fedele al manga o all'anime al 100% per essere un prodotto di qualità. Penso che si sia cercato di allargare a dismisura il potenziale bacino di utenza, ma il risultato per lo spettatore, in particolare per quello scaltro, è un po' deprimente. Paradossalmente non è neanche un film veloce, eppure i molti momenti topici vengono trattati in maniera sbrigativa. Ci troviamo dunque di fronte ad una crisi di identità, che è simile a ciò che succede alla protagonista, che si interroga sulla propria anima. Se guardiamo al 2017 abbiamo avuto ottimi film, pensiamo a Split, che tratta lo spettatore con riguardo, non lo accompagna con la manina verso la soluzione. Gli eventi si mostrano per quello che sono e la scoperta è genuina. La figura della psicologa in Split è costruita in modo molto più intelligente rispetto a quello della ricercatrice scientifica in Ghost in the Shell, che ha una funzione puramente didascalica. Sarà anche il contesto differente forse, però allo spettatore Ghost in the Shell non lascia nulla, non lascia immaginazione o il piacere della scoperta e non lascia neanche riflessione. John Wick invece ha una sua identità, sa che cosa è azione e violenza a servizio dell'estetica, grazie a una coreografia al top. E che cos'è invece Ghost in the Shell? L'estetica, per quanto convincente, non è funzionale a nulla. La profondità dei temi che sono trattati, come l'autocoscienza o l'intelligenza artificiale, è bruttamente banalizzata da dialoghi semplicistici e l'azione diretta col minimo sforzo. In tutta questa confusione e incertezza abbiamo un Kitano convincente, ma lui è fatto così, basta guardarlo in faccia per sentire il suo carisma. Mentre Scarlett, ha avuto un ruolo difficile, purtroppo sembra a volte più una teenager imbronciata che un essere insicuro sulla propria anima ed esistenza. In definitiva è un film il quale ritengo non sia in grado di lasciare nulla allo spettatore, ed è un peccato per tanti motivi, perché i temi trattati erano pura dinamite. Se guardiamo il film dal punto di vista dell'anime e del manga è ancora peggio, perché tutti i difetti sopracitati vengono moltiplicati, poiché il punto di riferimento è altissimo. Ma ribadisco, la poca attinenza con l'opera originale è l'ultimo dei problemi di questa pellicola. Al limite è un aggravante, poiché poteva essere bellissimo anche discostandosi dal manga e dall'anime. Se siete fan di Ghost in the Shell, preparatevi al peggio, comunque, perché vedrete dei particolari che saranno semplicemente insopportabili. Basta pensare a come è stato trattato il Signore dei Pupazzi, e non voglio soffermarmi sulla fine. Ah, e poi questa ve la devo dire, giusto per sadismo, sia chiaro. L'iconica sequenza dello Shelling, ebbene, scordatevi lo stupendo tema musicale di Making of Cyborg, e adesso soffrite. I vari otaku e simpatizzanti malediranno i gaijin per aver ancora una volta messo le loro mani su un prodotto nipponico, ma come ho detto i problemi della pellicola vanno oltre questa cosa. Dispiace parecchio, perché francamente se penso allo sviluppo della storia di Split o alla forte identità di John Wick mi rendo conto che questo Ghost in the Shell è pura generalità. Non c'è stato amore nella sua realizzazione e quando manca l'amore è dura. Lo dico con dolore perché è stata un'occasione persa, buttata via in favore di scelte di marketing veramente brutali. Alla prossima.